Sim Talk, Sputnik on Radio. Siete su Moon Talk con Chiara e Marta, 94.7.96.250, Città del Capo, Radio Metropolitana. Moon Talk, quindi, che questa settimana parla di Primavera Sound, che si tiene a Barcellona, esattamente al Parc del Forum, e che si è costituito nel 2001, insomma è diventato uno dei festival più importanti d'Europa di musica in generale. Sì, anche se era nato con la musica elettronica. Sì, però adesso un po' si è esteso la musica indie e di avanguardia in generis, no? E quindi iniziamo subito con una band che si esibirà quest'anno al Primavera, cioè Less? Lo so come si pronuncia. No, è un gruppo di Barcellona, sono tre ragazze, devono ancora far uscire il primo disco, e il primo disco uscirà per la Capture Tracks, che è una piccola etichetta newyorkese, e loro sono spagnole, quindi forse si dice Ayas, non lo so. Ok, vabbè, sentiamo Mon Inventat. Questi erano forse gli Alas? No, sicuramente la seconda lettera è una I. Ah, è una I? Ayas. Chi lo sa. E non riuscivamo neanche a capire in che lingua cantava. Secondo me questa canzone è in francese. È in francese, sì. Con un accento un po' strano. Va bene. Quindi Ayas, abbiamo deciso, sono uno dei gruppi che si esibirà quest'anno al Primavera Sound Festival. Quest'anno abbiamo una lineup che va dai Panda Bear, che vi faremo a sentire dopo, The New Pornographers, Wilco, Wire, The Fall, Lee Scratch Perry, Le Dum Dum Girls. Poi tu che altro hai da farci sentire? Abbiamo i TOCs, poi vediamo i Cold Cave, i Pixies, Best Coast, Smith Western. Insomma, un festival. Broken Social Scene. Adesso sto guardando un po' il sito, ma sono veramente tanti. Tu che andrai, Marta? Sì. In quanti giorni di festival sono? Il festival si tiene da giovedì a domenica. No, forse la domenica è un giorno di non festival, però giovedì il primavera non questa, quella dopo, cioè il prossimo giovedì. Comunque il Primavera Sound ha organizzato degli eventi, dei concerti, sia il mercoledì che la domenica. Infatti mi dispiace, ma li perderò. Tu andrai quindi giovedì? Sì, io vabbè, parto mercoledì sera, quindi giovedì sono super attiva per la prima giornata. Okay. E quanti gruppi saranno? Ma secondo me centinaio. Centinaio? Sì, dai. Incredibile. Ci ascoltiamo subito un altro gruppo. Cosa ci ascoltiamo, Chiara? Vai tu. Ascoltiamoci appunto i TOCs, che sono una band americana con 7 album all'attivo. Però prima di quest'anno praticamente si era poco sentito parlare di loro, invece tipo la settimana scorsa hanno suonato al Covo con i Buzz Aldrin, e fanno del noise rock garage. Ci ascoltiamo una canzone del loro disco del 2009 e ci ascoltiamo Enemy Destruct. Yeah. Quindi questi erano The OCs con Enemy Destruct. E adesso invece passiamo a un gruppo, Broken Social Scene, che non è un po' scomparso negli ultimi anni. Il gruppo di Toronto, infatti sono passati 5 anni da quando hanno pubblicato il loro ultimo album, però insomma si deve... Beh, dai, nel frattempo ci sono stati, mi sembra, sì, due dischi componenti. Sì, dei componenti. E poi hanno, mi sembra, anche fatto uscire The Broken Soul Scene Presents, che era un mix di varie cose. Sì, però si devono sommare insomma le avventure soliste di Jason Colleck, Metric Feast e Charles Pirin, e poi alle ramificazioni dei gruppi paralleli come Apostle of Hustles e Stars. Comunque andiamo a sentire i Broken Social Scene con un classico che si chiama 7-4 Shoreline, Broken Social Scene. We'll be right back. Questi quindi erano i Broken Social Scene con 7-4 Shoreline, un pezzo abbastanza classico ed estivo. E Broken Social Scene, che sono usciti quest'anno invece con Forgiveness Rock Record, che non ho ascoltato, ma io sì, e non mi ha un po' delusa. Ah. Sì, io sono una grande fan, però non so, l'ho trovato un po' sottotono rispetto ai dischi precedenti. Anche li ho visti anche dal vivo al South by Southwest, e non lo so. Dai, vediamo. Beh, qui dice: adesso arriviamo al sodo. Forgiveness Rock Record magari avrà deluso chi si aspettava qualcosa di più da loro, ovvero o altre hit oppure innovazione a tutto spiano. Invece esistono anche altre strade. Sì, anche secondo me. Sono perfettamente d'accordo con questa recensione. Okay, va bene. Comunque andrò a vederli sicuramente. Ok, e adesso passiamo? Adesso ci ascoltiamo un gruppo nuovo, sono newyorkesi, si chiamano Sleigh Bell. E il disco è uscito proprio in questi giorni, si chiama Treats. È stato prodotto dal chitarrista Derek Miller, che ha proprio recentemente lavorato al terzo disco di M.I.A. Mm-hmm. E infatti si sente abbastanza anche negli Sleigh Bells. Sì. Loro sono di? Sono newyorkesi. New-yorkesi. E anche loro hanno suonato in diversi festival molto, molto importanti, tra cui appunto il South by Southwest, il Coachella, il Pitchfork Music Festival e adesso al Primavera Sound. Noi ci ascoltiamo una canzone, secondo me, un po' atipica rispetto alle altre. quindi proprio il... Non sembrano per niente mia. Assolutamente no. E ci ascoltiamo Ring Ring. Like the Pentagon, we are the river flow, and you can never know. You're just a weatherman, we make the wind blow. Keep thinking about every straight face, yes. Wonder what your boyfriend thinks about your braces. What about them? I'm all about them. Six such straight A's, cut them in the bathroom. So this is it then, you're hitting me then. Tick, tick, settle, let's see you on the moon then. We're all alone, friend, we got the fun then. Ring, ring, call them up, tell them about the new trends. So this is it then, you're hitting me then. Tick, tick, settle, let's see you on the moon then. We're all alone, friend, we got the fun then. Ring, ring, call them up, tell them about the new trends. Quindi questi erano i Sleigh Bells con Ring Ring. Noi abbiamo ascoltato Ring Ring. E questo invece che sentiamo in sottofondo è un'altra canzone sempre dei Sleigh Bells, Crown on the Ground. No? Tratta sempre, sì, dal loro primo disco, Treats. Quindi Sleigh Bells, che sì, qualcosa di mia, forse nell'utilizzo della voce, qualche suono. Sì, sì, sì, in questo pezzo che stiamo sentendo ora, secondo me si sente abbastanza, soprattutto il terzo lavoro di mia. Ok. Delle somiglianze. Io adesso mi avvicinerò piano piano all'elettronica, perché al Primavera appunto è nato un po' per ospitare artisti che si occupano di musica elettronica e quindi quest'anno si vedranno vari artisti, tra cui The Field, che è un musicista svedese di musica elettronica minimale, nato a Stoccolma. Il suo album di debutto, che è stato molto importante, si chiama From Here We Go Sublime, che è uscito nel marzo del 2007. The Field è il nome quindi di Alex Wilner, trasferitosi nella capitale all'età di 2 anni. Vabbè, non ce ne frega niente. Proprio la biografia da quando è nato. Vabbè, il debutto dell'artista sulla scena musicale è avvenuto nel 2005 per l'etichetta indie tedesca La Compact, che raccoglie cose molto, molto belle. Nel 2006 pubblicò un terzo 12 pollici contenente Sun and Ice. L'anno successivo viene appunto From Here We Go Sublime, e quindi andiamo a sentire un pezzo da questo album che si chiama The Little Heart Beats So Fast, The Field. quindi questo era The Field. Con The Little Heartbeat So Fast, un pezzo bellissimo che metteremo sicuramente a un DJ set. Sì, va bene. Tra pochissimo. È stato approvato anche da Marte. Sì, quindi. Sì. The Field, quindi, che si esibisce al Primavera Sound. Siete su Moontalk, città del capo, Radio Metropolitana. Magari con diamo Marta anche il nostro, esatto, recapito. Esatto. Allora, email è moontalkradio@gmail.com. Il nostro blog per ascoltare le puntate precedenti è www.moontalkradio.blogspot.com. E mancano le ultime due puntate, infatti stiamo anche cercando uno stagista che che faccia questo e che ci aiuti un po', che ci aiuti un po'. E adesso torniamo al Primavera Sound 2010, ci ascoltiamo una canzone dei Cold Cave. I Cold Cave sono l'ultima creatura nata dalla mente di Wesley Isold, penso si pronunci così, che è un ex componente della hardcore punk band Give Up The Ghost e del supergruppo grind Some Girls. E questa volta ha ruolato nel suo gruppo Carrie Lee McElroy, che aveva già collaborato con gli Shushu, e Dominic Ferno, e anche lui comunque polistrumentista con già 300 gruppi all'attivo. Ci ascoltiamo, allora vediamo, Chiara, fammi vedere che canzoni abbiamo dei Cold Cave. Proprio quella che hai selezionato. Ok. Che si chiama? Si chiama The Laurels of Erotomy. Cos'è? Che non riesco a leggere. The Laurels of Erotomia. No! Erotomania. Esatto. Ok. Thank you. questi erano i Cold Cave con come si chiama questa canzone, Chiara? The Laurels of Erotomania. Esattamente, tratta dal loro ultimo disco, è anche il primo della verità, che si chiama Love Comes Close, uscito per la Matador. Allora, i Cold Cave suonano proprio la prossima settimana, 24. In particolare sì, il 24 lunedì al Covo e poi il giorno dopo, il 25, a Torino allo Spazio 211. Io ve li consiglio, hanno un sacco di sintetizzatori e nessun altro strumento. Sono molto divertenti. Sintetizzatori e voce. Sì, molto divertenti dal vivo, molto molto. Se ce la faccio. Se ce la fai, dai, vieni con noi. Lunedì al Covo. Ok. E io passerei subito a sentire Diplo, che si esibirà anche lui al Primavera, perché ti sei dimenticata di dire che si esibiscono anche al Primavera. Beh, sì, puntata dedicata al Primavera Sound 2010. E, Diplo è abbastanza particolare, nel senso che ha lavorato tantissimo negli ultimi anni sia con Mia che con altri musicisti come Spank Rock, Amanda Blake, Santi Gold, e sicuramente ha lanciato una quasi moda, oserei dire. Quale moda? Vabbè, dei gruppi che si ispirano un po' all'hip hop, però anche alla world music, no? Molto danzerecci. Ah, io non lo conosco molto, quindi adesso sono curiosa di sentirlo. Ok, ha lavorato anche con il gruppo brasiliano Bondo do Role. Sì, quelli loro li conosco. Ok, è di Bristol, quindi inglese. E noi andiamo a sentire un pezzo, in realtà un remix, ma è molto interessante, di un artista che si chiama Sia, che ha fatto una canzone inutile che poi Diplo ha remixato e l'ha resa molto bella, insomma un pezzo da mettere a un DJ set. Un sacco di consigli, di messaggi occulti. Diplo, clap your hands. Boom. Marta non è d'accordo. No, mi sa che scelta. Questa canzone non, no, non la metteremo un po' nei, di più, ma no, a me piace parecchio, parecchio, parecchio. Non la trovo per nulla banale, Marta. Ma sì, ma da solito DJ set di musica elettronica, niente di più. No, io la trovo una bel deep house con dei bei bassi. Mi piace. Ma, vabbè, dai, magari la riascolto. Mm. Ti chiamano, Marta? Sì, mi sta chiamando mia mamma, in effetti. Se proprio vogliamo dirla. Vabbè. E cambiamo completamente genere. Riportiamo la trasmissione sulla retta via. Esattamente. E quindi parliamo dei Beach House, che abbiamo già ascoltato nella puntata, se non mi sbaglio, sul Dream Pop. Mm-hmm. Quindi ovviamente atmosfere molto dreamy, sognanti. Quelle che tanto oppure ci piacciono. Dormienti anche, sì. E vabbè, non dico che è uno dei concerti che più aspetto al Primavera, perché sarebbe banale. Esattamente, è scontato. E ci ascoltiamo una canzone tratta dal loro ultimo disco, Teen Dream, uscito proprio quest'anno, che secondo me è anche uno dei dischi più belli del 2010, che entrerà sicuramente nella Moon Top. Sì. E ci ascoltiamo Walk in the Park. And I Beach House con Walk in the Park. Sì, bravissima. E, quest'anno, oltre a gruppi, diciamo, indipendenti e abbastanza nuovi, ci sono anche delle vecchie glorie, tra cui i Pavement, che anche loro suoneranno qui in Italia, mi sa, a Ferrara. No, forse i Pavement suonano all'Estragon, e invece i Pixies, che suonano appunto a Ferrara sotto le stelle. E così, dai. Un po' strano questo, no? Cosa? Boh, mi fanno sentire vecchia. I Pixies o i Pavement? Tutte e due. Ma io, sai che, io invece, boh, non l'ho vissuto il periodo in cui li ascoltavo. Cioè, li ho presi quando ero più grande. Sì, certo, però comunque era qualche anno fa. Beh, sì, però io mi ricordo quando avevo 13 anni c'erano gli Smashing Pumpkins, sì, c'era sì, quel sì, periodo sì. lì, poi i primi anni 90, Britney Spears, cioè queste cose qui, no? I Pavement forse bisogna avere Jackson, qualche anno in più, forse. Sì, sì, sì, però comunque all'inizio, diciamo, di una certa maturità. Sì, sì, sì, no? Si passa per questi gruppi. Si passa. Assolutamente. Quindi, sì. Vederli ritornare mi fa un po'. Ma infatti sono, vabbè, quella di Pavement è una reunion, invece i Pixies mi sa che hanno sempre continuato, sì, senza sì, mai sì. sciogliersi. Sì, ma mi sa che sono andati una cosa tipo Heineken Jamming Festival. Quali? I Pixies, sì, infatti li ho visti lì. Sì, sì, sì. Aia. No, vabbè, comunque sono secondo me sono ancora bravi. Pavement, okay. Non lo so, vedremo quest'anno. Ok. Dei Pixies ci ascoltiamo proprio un ma classicone. I Pixies o i Pavement? No, io voglio sentire i Pixies. Sono più fan dei Pixies. Ci ascoltiamo un classicone. E Chiara, hai sempre tu il computer più vicino. Here comes your man, the Pixies. Thank you. sorriso. E non c'è nulla da ridere. Vabbè, stavamo un po' parlando dei gruppi un po' attempati che quest'anno parteciperanno al Primavera Sound 2010. No, Chiara, io no. Forse qualcun altro, sì. Comunque, oltre ai Pixies ci sono appunto i Pavement, i Wire, i Low e direi basta. Tutta roba molto interessante. Come no? Vabbè, no, secondo me questa è la roba meno interessante. Però. Ma non è, vabbè, non è vero. Guarda che c'è, secondo me invece c'è gente che ci va apposta per questi gruppi. Beh. Credo proprio di sì. Vabbè, però... cioè. No, anche a me fanno un po' tristezza tutte queste reunion, queste... Pompiamo un po', Marta, pompiamo no, un allora, po'. No, prima... Vabbè, intanto in sottofondo ci stiamo ascoltando gli Smith, Smith Western. Anche loro... Non, loro invece sono giovanissimi, avranno, credo, vent'anni. Questi erano i Smith Westerns. Sì. Con Girl in Love. Sì. La so io. Metti tu o metto io? Dai, ti lascio mettere le tue cose. Chiamiamole così. No, no, dai. Le prossime che metterai apprezzo anch'io. Ok, io volevo mettere un pezzo bello pesante. Cioè i Fuck Buttons, che appunto... Si capisce anche dal nome del gruppo, che sono un duo elettronico, electronic, da Bristol, quindi dall'Inghilterra, che si sono formati nel 2004. Sono Andrew Hung e Benjamin Joe Power. Sono usciti con due dischi, uno del 2008 che si chiama Street Horsing e uno invece l'anno scorso che si chiama Tarot Sports. Andiamo a sentire Space Mountain. Thank you. questi quindi erano i Fuck Buttons. Fuck Buttons. Sì, con Space Mountain. Space Mountain, che è contenuto nell'ultimo album, cioè Tarot Sport, uscito nel 2009, che ha avuto un successo insomma importante. Sì, sì, molto molto apprezzato dalla critica. Ti è piaciuto? Ma sì, un po' noise elettronico. Sì, sì, sì, non mi dispiace. E direi che sì, siamo in chiusura. Siamo in chiusura, dobbiamo chiudere. Quindi diciamo di nuovo i nostri contatti, cioè Gmail, moontalkradio@gmail.com. Invece il blog lo trovate a www.moontalkradio.blogspot.com. Ci potete seguire su anche su Facebook. E questa puntata era dedicata al Primavera Sound, che quest'anno si terrà dal 27 al 29 maggio a Barcellona, quindi siete ancora in tempo. Sì, sì, prendere sì. I biglietti last minute. E chiudiamo con Panther du Prince. In realtà che non si esibirà, invece si esibirà Panda Bear, che lo sentirete anche in questo pezzo, perché è una collaborazione tra i due. Panda Bear è uno dei fondatori dell'etichetta degli Animal Collective e degli Animal Collective, quindi i Paw Tracks, mi sembra che si chiama, sì, Paw Tracks. Lui si chiama Noah Lennox. Noah Lennox, insomma, ispirato dai panda, quindi... e comunque che ha iniziato un po' dal Laos alla techno, si ispira abbastanza agli Aphex Twin. Lo sentiamo in questo pezzo appunto assieme a Panther du Prince, che è un pezzo molto carino, Stick by My Side, e ci sentiamo la prossima settimana con non si sa che cosa. Improvvisiamo sempre. Improvvisiamo. Moon Talk, alla prossima settimana. Ciao.